Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ad ogni curva mi giravo a guardare. Il toro era sempre dietro, sempre più vicino. Le pantofole di nonna avevano preso vita propria. Non aveva mai corso così in tutta la sua vita. Arrivati sulla strada asfaltata, iniziamo a correre più veloce, solo che anche il toro correva di più. Allora, io sono Sara, abito a Rossana, ho 40 anni, faccio lo scultore e costruisco strumenti musicali e le arpe. Se avete voglia di cercare di capire un po' meglio le persone che vi stanno intorno, di riuscire a decifrare le loro emozioni, le loro sensazioni o anche solo quello che dicono i vostri colleghi, i vostri amici, vostra moglie, vostro marito, ascoltate questo programma. Adesso vi spiego perché. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, buongiorno a tutti. È uno splendido, uggioso lunedì, oggi a Milano, di quello che esci, piove, non piove, sei comunque bagnato. È il 7 di ottobre, d'altra parte è autunno e funziona così. Ecco quello di cui vi parlavo un attimo fa. È una ricerca. State lì. Non è la solita bufala di ricerca in cui si parla di sesso o robe varie. È una ricerca che è stata fatta ovviamente negli Stati Uniti, come tutte le ricerche. No, non è vero. Le ricerche più fuffe di solito sono fatte tipo in un paese scandinavo. Insomma, questa ricerca fatta negli Stati Uniti racconta di come delle persone prese e messe a leggere diverse cose, dei romanzi, sostanzialmente storie, oppure non fiction, cioè saggi, o articoli di giornale, quando si trovano davanti a delle facce per decifrare le emozioni di quelle facce, chiaramente fotografie, stiamo parlando non di persone, quelli che hanno letto i romanzi, quelli che hanno letto delle storie, quelli che quindi hanno creato empatia con il mondo attraverso delle storie, riescono a decifrare meglio quelle facce e a capire meglio le emozioni di quelle persone, molto di più di chi ha letto un saggio o di chi ha letto un articolo di giornale. Sembra una banalità, ma non è così. Ecco perché vi consiglio tutti i giorni di venire qui alle 16 in punto a ascoltare questo programma che si chiama Voi siete qui, e se avete voglia anche a raccontare una vostra storia. Voi siete qui, @radio24.it, una pagina che racconti qualcosa di voi, una storia che vi racconti. È la volta, ad esempio, oggi di Sara, che ci racconta un episodio legato a una giornata in montagna. Lasciate stare, adesso ve lo racconto meglio. La filosofia però di questa puntata, quando ci siamo guardati, è stata: bella la montagna, però 349-238-6666, interpretate quel però come volete. Oppure Voi siete qui, Radio 24 su Facebook, ma anche su Twitter, il profilo è Voi siete qui R24. Bella la montagna, però... Io e Filippo passavamo le vacanze estive in montagna, in una vallata delle Alpi Cozie, con le nostre nonne. Quel giorno pareva veramente speciale. Non so come, eravamo riusciti a convincere le nonne a fare una bella passeggiata nei boschi, con relativo picnic. Dico non so come, perché la sua di nonna era nella norma, ma la mia era un donnone di 1,80 m per 80 kg, sempre con le ciabatte, al punto che non ricordo mai di averla vista con un paio di scarpe. Quella mattina partimmo di buon'ora, con il nostro zainetto di panini e succhi di frutta sulle spalle. I sentieri erano per lo più in mezzo al bosco. Ci portavano alle varie borgate adiacenti alla nostra e piano piano salivamo quasi senza accorgerci. Noi giovani davanti e le nonne ad arrancare dietro. La fatica non impediva loro di chiacchierare senza soluzione di continuità. L'ingombrante sagoma di mia nonna svettava sul sentiero. Sembrava una fiera alpinista, con ai piedi le sue ciabatte più comode. Avevamo deciso, io e Filippo, che la borgata Palancia Sottana sarebbe stata la nostra meta. Queste piccolissime borgate erano tutte disabitate. Le case erano state abbandonate da parecchi anni. La gente del posto si era quasi tutta trasferita in città, a Torino, per lavorare alla Fiat. Io e Filippo passavamo le estati a curiosare in queste case abbandonate. Avevamo lasciato tutto. Dentro quelle case c'erano ancora letti, armadi, con tutta la biancheria. Libri di scuola, quaderni, foto, come se il ritorno dei loro abitanti fosse solo questione di giorni. È una valle che si chiama Val Varaita, è una valle molto bella, aperta. Nella fattispecie lì ci trovavamo a Valmala, che è una valle dove c'è un santuario, e noi ragazzi che abitavamo, cioè bambini che abitavamo comunque in provincia di Torino, avevamo tutti le doppie case su di là, per cui d'estate si passava là coi nonni, quasi tutti arrivavamo dalla zona del torinese. Raggiunta la nostra meta, le nonne scelsero un bel prato verde, sistemarono la tovaglia ed iniziarono ad imbandire porcherie per fare felici noi bambini. Ma quel giorno la nostra felicità passava per le esplorazioni. Dovevamo rovistare in quei ruderi alla ricerca di chissà quali tesori nascosti. Quatti quatti entrammo nella prima stanza al piano terra. Era buia, solo una piccola linea di luce filtrava da una fessura. Procedevamo motivati quando qualcosa ci lasciò di pietra. Due occhi, nell'ombra, che ci guardavano. Quei due occhi, in più, si avvicinavano. Lenti, ma inesorabili. Quando finalmente gli occhi arrivarono alla linea della luce, scorgemmo il contorno a cui appartenevano. Una mucca. Indietreggiammo piano piano, poi una volta fuori ci mettemmo a correre verso le nonne. «Nonna, c'è una mucca dentro, guardate!» Non avemmo nemmeno il tempo di pronunciare queste parole, che dalla porticina uscì. Le nonne lo guardarono e urlarono «Non è una mucca, è un toro!» Il toro iniziò a muoversi verso di noi. La nonna raccolse la tovaglia e assieme alla sua degna compare Annetta corsero giù per la strada a gambe levate. Stavolta erano loro davanti e noi ad arrancare dietro. Quella strada portava alla direttrice principale che era asfaltata. Ad ogni curva mi girava a guardare e il toro era sempre dietro, sempre più vicino. Le pantofole di nonna avevano preso vita propria. Non aveva mai corso così in tutta la sua vita. Arrivati sulla strada asfaltata, iniziamo a correre più veloce, solo che anche il toro correva di più. Io mi ricordo la testa di questo toro, cioè mi giravo, vedevo questo toro sempre dietro, no? Perché è durato un attimino, non è stata molto breve la cosa. Probabilmente ci seguiva soltanto perché si era perso, però lì per lì è stata abbastanza angosciante. Il toro era ormai vicinissimo. Quando apparve di fianco a noi la 500 arancione della Adelina, una signora del posto. Si ferma con un'inchiodata, apre la portiera e in un nanosecondo siamo tutti sopra, sfidando tutte le leggi della fisica. Dall'1.8 vedevo il toro arrivare spedito e la 500 faticava a riprendere velocità. Poi lentamente il toro cominciò a rimpicciolirsi. Eravamo in salvo, grazie alla 500 di Adelina e la nonna grazie alle sue ciabatte. Del toro poi non sapemmo più nulla. Voci dicevano che si era perso durante una transumanza e che vagava ormai da giorni. Il pensiero che magari volesse solo un aiuto ci aveva sfiorato più di una volta, ma di sicuro non l'avremmo mai saputo. La mia nonna invece, anche dopo molti anni, non si capacitò mai di avere corso così veloce quel giorno. How endlessly you fall, then the answer that you're seeking, for the question that you found, drives you further to confusion. As you lose your sense of ground, so don't forget to breathe. Don't forget to breathe. 1. Pianificare la gita a tavolino. 2. Informarsi sulle previsioni del tempo. 3. Scegliere un'escursione adeguata alla propria forma fisica. 4. Scegliere l'attrezzatura adeguata. 5. Portare capi che riparino dal freddo e dalla pioggia. 6. Rispettare la natura. 7. Seguire sempre i sentieri indicati. 8. Mai urlare quando c'è neve. Potrebbe staccarsi una valanga. 9. Non provocare gli animali liberi. 10. Mai stare sotto un albero o nei pressi dei corsi d'acqua quando scoppia un temporale. Ecco, queste sono più o meno le regole auree che si trovano nella maggior parte dei rifugi di montagna. In montagna non si scherza, ti dicono. Qua si fa sul serio. Io appartengo alla categoria di quelli che scelgono la destinazione in base al menù del rifugio. Cioè, se parto con la voglia di crostata ai mirtilli, vado da una parte. Se invece ho voglia di polenta e camoscio, vado da un'altra. Guardo con ammirazione quelli che fanno scalate impegnative. E mi piace l'attrezzatura, mi piacciono i chiodi, le picozze, i martelli, gli zaini, gli scarponi. Mi piacciono le facce seccate dal sole e mal rasate che hanno quelli che scendono dal ghiacciaio. Mi piace la letteratura di montagna. Mi piace, ma sono e resto un alpinista da pranzo in rifugio. Noi alpinisti da pranzo in rifugio, quando ci troviamo di fronte ai manifesti con le regole d'oro, con i nostri Bermuda e le scarpe da ginnastica, siamo convinti che non ci riguardino. Per noi, qualche volta, anche il rifugio è troppo lontano e questo succede soprattutto quando vado in montagna con il mio amico Mauro. Da tanti anni che ci vado, a parte qualche sciata d'inverno, non ricordo che ci siamo mai andati a camminare in montagna. E non è pigrizia, è che quando arriviamo a casa sua ci piace girare la polenta sulla stufa, far andare i camini, passare il tempo. La casa di Mauro è una vecchia casa di montagna, di legno e di pietra. E da 20 anni a questa parte, quando si può, ci passiamo sempre qualche giorno assieme. Suo padre, invece, il Luigi, è un vero alpinista. Ora ha più di 70 anni e qualche acciacco, ma quelle montagne le ha girate una per una. Mi è capitato anche di fare qualche passeggiata da soli, io e lui. E da conoscitore delle montagne sa istintivamente quali sono le regole d'oro. Così, un giorno dell'estate scorsa, quando io e Mauro decidiamo di andare a fare il bagno in un torrente, ci attacca che l'acqua punge da quanto è fredda, che le nuvole sono lontane ma che stanno arrivando. Insomma, ci riempie di regole d'oro. Tutte corrette e tutte un po' noiose, come tutte le regole d'oro. Per raggiungere il torrente si va per una strada bianca, si attraversa un piccolo bosco e si entra nel letto del fiume. E solo dopo aver camminato per un po' sui sassi bagnati, si arriva a due pozze profondissime, legate l'una all'altra con una cascata in fondo. Fate conto, una specie di otto d'acqua limpidissima e ghiacciata, incastrato in mezzo alla montagna. La bellezza del posto vale la strada, andateci se volete, è in Valsesia, vicino a Scopa. Non c'è nessuno, mai. Quel giorno Olmo, il figlio di Mauro, ci ha seguiti in bicicletta, è il primo a tuffarsi e noi lo seguiamo. Comincia a piovigginare. Bastano i pochi secondi che uno ci impiega da quando si tuffa a quando riemerge per trasformare quelle piccole gocce in una grandinata. Dunque, le regole d'oro dicono che non si deve stare vicino all'acqua durante i temporali, quindi ci copriamo la testa con i vestiti e ce ne andiamo. Chicchi di grandine grossi quanto una cino d'uva ci rimbalzano addosso. Arrivati alla strada bianca cerchiamo riparo sotto un albero, ma la regola d'oro dice che non si deve stare sotto gli alberi durante un temporale, soprattutto in montagna. Per questo quindi Mauro mette l'accappatoio a Olmo, che intanto è completamente nudo, lo fa montare in bicicletta e gli dice di andare di corsa fino a casa. Dal nostro albero lo vediamo schizzare sotto il diluvio a tutta velocità, fino a quando non sparisce dalla nostra vista. Poco dopo smette di piovere e anche noi ci avviamo verso casa. Ma molto prima della casa troviamo la biciclettina e l'accappatoio di Olmo abbandonati su un ciglio della strada. Ecco, a quel punto noi realizziamo che c'è un bambino di 5 anni e mezzo, completamente nudo, da qualche parte, in giro per la montagna. E che siamo stati noi a metterlo in quella situazione. La preoccupazione ci spinge a correre fino a casa sperando di trovarlo. Quando arriviamo, il Luigi, il papà di Mauro, ci guarda da lontano e ride ovviamente. Gli sono venuto incontro con la macchina, arriva sempre il temporale se le nuvole arrivano dalla pianura, ci dice. Poi si mette a ridere e in dialetto ci dice: se vi una scherza col gat, poi angamia da lumantesi, salus graffigna. Che più o meno vuol dire: chi scherza col gatto, poi non si lagni se viene graffiato. E anche questa è una regola d'oro. Sometimes I pray the Lord, God let me rest in peace. And if you dare to do that, don't have no mercy on me. I got to sing my story. Story of misery. Hope you don't mind us crying. Can't dream with you. C'è una foto sul sito di Radio 24, c'è tutti i giorni. È la foto di chi ha scritto, è un ritratto, la foto di chi ha scritto la storia e ce l'ha raccontata e io ve la racconto velocemente la foto. C'è Sara, ovviamente, la foto è stata scattata da qualcuno in un attimo in cui lei non aveva voglia di essere fotografata. C'ha la faccia di quella che dice: avanti, dai, dai, scatta, scatta, a posto, fatto? Possiamo andare. Ha i capelli legati, gli occhiali da sole, una magliettina grigia e si intravede nella maglietta girocollo i laccetti del costume, del bikini, perché è, direi, al mare. C'è un deserto dietro di lei. Sono quasi sicuro che sia in Mar Rosso. Te lo chiedo direttamente. Pronto, Sara? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Sì, sì. È il Mar Rosso, il Mar Rosso. Sei in Mar Rosso, sei un bel Mar Salam o Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh. Sì. Non va più però tanto Sharm ultimamente, la gente comincia ad andare verso Mar Salam. No, noi eravamo andati lì, ma era il 2008. Come dire... Allora, non c'erano ancora tanti attentati allora. Ok, adesso la gente non ci va più per quello, dici? Sì, noi ci siamo stati, subito dopo c'è stato quell'attentato a Dab. Abbastanza grande. Ah sì, certo, certo, sì, certo, certo, sì. Quindi hai detto il 2008, 2009? 2008 mi sembra. 2008. Sì. Sara, ma veniamo a noi, veniamo alla nonna, questa figura meravigliosa della nonna, 80 kg per un metro, un nonnone proprio, nel senso che noi di solito quando pensiamo alle nonne pensiamo sempre solo a, vabbè, chiaramente è un luogo comune orribile, però a delle donne minute, piccole, che dobbiamo guardare dall'alto in basso, il genere nonnone proprio. No, lei era proprio, io me la ricordo, proprio un donnone, sì, sì, era alta e... Lei era veneta, arrivava dal Bellunese, era una cruccona proprio. ed era da sola, il nonno non c'era più? No, il nonno non c'era più, no. È, già da un... è morto giovane, il nonno è morto 20 anni in guerra e... Ho capito, di quelli che sì. L'ha lasciata lì. L'ha lasciata lì. La vita è la nonna anche. Senti, invece la nonna, la nonna c'è ancora, non c'è più? No, non c'è più da un bel po' di anni. Sara, perché ti è venuto in mente questo episodio da raccontarci quando hai pensato a una storia per il programma? Ma è un episodio che glielo racconto sempre a mio figlio perché adesso mi fa divertire, no? Poi all'epoca siamo stati tanto presi in giro nella borgata perché era stata una... Beh certo, un toro che ti insegue è una roba da Pamplona più che da borgata. sì. Sara, mi dici invece esattamente che lavoro fai? E sono uno scultore di arpe, quindi adesso strumenti musicali. La seconda domanda è che è il tuo mestiere proprio, cioè vivi facendo questo? Sì, è il mio mestiere, sì. Cosa significa scultore di strumenti musicali? Ma io lavoro in una ditta che costruisce arpe, io sono scultore, scolpisco. Ah, di arpe proprio? Ah, scusami, avevo capito arte, non capivo, arpe con la P, arpe, cioè di breberben, quelle robe lì. Sì, sì, cioè, con tutto il rispetto per l'arpa, che è uno strumento delicatissimo e quasi celestiale. Ti capisco. È difficile suonare, forse non lo sai nemmeno tu. Suonare non lo so. Ok, no. Costruirla è abbastanza complessa, infatti sono carissime, sì. Ma è un lavoro artigianale proprio, cioè tu con quali sono i tuoi strumenti di lavoro? Scalpelli, sgorbie, scalpelli. Ammazza, quanto ci metti a costruire un'arpa? È tutta intera un bel po' di ore. Ci vanno tante ore. Ma tipo una settimana? E adesso di preciso non te lo so dire perché ognuno fa un pezzo, per okay. Cui a me tocca la scultura, poi ci sono i falegnami. E certo, ovviamente ognuno c'ha il suo. E quanto costa un'arpa? Sì. Tanto. Una delle più belle costa sui 70-80 mila euro. Benissimo. Quelle che scolpiamo noi, sì. Ah, le vostre proprio? Sì, perché ce n'è una ventina di modelli, ma... Quelle più care sono quelle scolpite, poi vanno dorate, per cui c'è un lavoro sopra, già solo di scultura sulla settantina di... Cioè ci 70.000. Voi appartenete a quella categoria che dice, guardate, noi costiamo tanto, però siamo bravi, eh? Sì. Ci sono quelli che come biglietto da visita, noi costiamo tanto, però siamo bravi. C'è gente che le compra. Certo. Sara, grazie mille per la storia e la chiacchierata. Ciao, grazie, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666, in chiusura di questa puntata, nella nuova versione che ormai avete imparato ad ascoltare, breve, mezz'ora, ma ci facciamo stare tutto. Oggi è la vittoria dei messaggi fuori contesto. Ma innanzitutto questo che mi scrive tutti i giorni, questa è Fibra Matteo, basta, ho capito, ti piacerà quella pubblicità. E poi Claudio da Verona. Dino Buzzati scrisse Il deserto dei Tartari, sulle cime delle Dolomiti Bellunesi. Che non capisco cosa c'entra, ma soprattutto se ci state ascoltando in un orario che non sono le 4 del pomeriggio, ma sono le 5 del mattino, sappiate che non avete sbagliato, perché abbiamo scoperto da poco che nel nuovo palinsesto c'è una replica notturna, direi quasi albeggiante più che notturna, dalle 5 alle 5.30, dal martedì al sabato mattino. E allora facciamo che, visto che l'abbiamo scoperto, questa puntata è dedicata a voi. Grazie a quelli che hanno reso possibile anche questa puntata: Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina e Mauro Pescio. Grazie a Sara soprattutto, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Alessandra, sono argentina meglio, vivo a Verona. La storia di domani era mia e parla di vino e amore. Questa è la mia storia e io sono qui.